Ciao a tutti e benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un mondo affascinante, quello dei modelli linguistici, ma da una prospettiva che forse non avete mai considerato: il costo delle lingue. Se avete pensato che parlare una lingua piuttosto che un'altra possa influire sul costo di strumenti come ChatGPT? Probabilmente no, eppure la ricerca. Do all languages cost the same? Tokenization in the era of commercial language models, realizzata da alcune brillanti menti dell'Università di Washington e della Carnegie Mellon, dimostra proprio questo. Mette in luce un aspetto poco noto ma cruciale: l'equità dei prezzi per l'utilizzo delle API di modelli linguistici. Già, e la cosa sorprendente è che questa disparità di prezzo non è dovuta a chissà quale strategia di marketing, ma a un elemento fondamentale del funzionamento di questi modelli. Proviamo Esatto. a spiegarlo in modo semplice. Immagina i token come mattoncini Lego con cui i modelli linguistici costruiscono e comprendono il linguaggio. Ogni parola, ogni frammento di testo viene scomposto in questi mattoncini digitali per essere elaborato. Esattamente. E qui viene il punto. I tokenizer, gli strumenti che suddividono il testo in token, non trattano tutte le lingue allo stesso modo. Le lingue meno rappresentate nei dati di addestramento dei modelli, come ad esempio il telugu, vengono spesso frammentate in un numero di token molto maggiore rispetto a lingue come l'inglese, che hanno goduto di una maggiore presenza durante lo sviluppo di questi strumenti. Per Capisco. farvi un esempio concreto, pensate alla parola incredibile. Un tokenizer potrebbe scomporla incredibile. Invece una parola telugu con lo stesso significato potrebbe essere spezzettata in molti più frammenti. Quindi più token più costo. Sì. Mi sembra di capire che le API di modelli linguistici commerciali come ChatGPT applichino un costo in base al numero di token elaborati. Esatto. E questo significa che a causa di questa disparità di tokenizzazione, chi parla lingue meno rappresentate finisce per pagare di più con le stesse operazioni rispetto a chi parla inglese. Davvero? La ricerca indica che la differenza può arrivare fino a 5 volte tanto. 5 volte. Pensate. Utilizzare un'API per riassumere un articolo di giornale in telugu può costare 5 volte di più che farlo in inglese. E come pagare 5 volte tanto per un messaggio di testo solo per la lingua in cui è scritto? Cavolo, è davvero incredibile, ma non si tratta solo di soldi, vero? No, no. Questa disparità di tokenizzazione ha anche un impatto sulle prestazioni dei modelli. Certo, un'eccessiva tokenizzazione può compromettere l'efficacia di compiti come la risposta alle domande o il riassunto, che Giusto. richiedono la comprensione di ampie porzioni di testo. Per capirci, immaginate di dover costruire una struttura complessa con i Lego, ma di avere a disposizione solo pezzi minuscoli e frammentati. Difficile avere un'immagine chiara, non trovate? Assolutamente. Quindi non solo si paga di più, ma si ottiene anche un servizio peggiore. Purtroppo sì. Ma perché questo dovrebbe interessare a chi ci ascolta? È bella domanda. Quali sono le implicazioni di tutto questo a livello globale? La disparità di tokenizzazione nei modelli linguistici solleva importanti questioni di equità e di accesso alla tecnologia. Mette in luce come i pregiudizi presenti nei dati utilizzati per addestrare questi modelli possono avere conseguenze economiche e sociali concrete nel mondo reale. La Interessante. ricerca ha evidenziato una forte correlazione negativa tra l'indice di sviluppo umano di un paese e il tasso di frammentazione della sua lingua in questi modelli. Cioè, le persone provenienti da paesi economicamente meno sviluppati spesso pagano di più per un servizio peggiore. Purtroppo sì, e questo non fa altro che aggravare le disuguaglianze esistenti, limitando l'accesso all'informazione e alle opportunità per milioni di persone. Un circolo vizioso davvero preoccupante. Ma cosa si può fare per cambiare la situazione? Esistono soluzioni concrete? Certo, diverse soluzioni sono state proposte, ad esempio si potrebbero sviluppare politiche di prezzo basate sulle lingue, sulle regioni, tenendo conto anche delle prestazioni del modello, su benchmark specifici per lingua. Oppure si potrebbe pensare di non far pagare per i token, ma adottare un sistema di tariffazione basato sui caratteri, come fa ad esempio PaLM-2 API. Ah, sì. Sarebbe un sistema più equo. Difficile dirlo, con certezza sono necessarie ulteriori analisi. Interessante. Quindi la questione della tokenizzazione è ben più complessa di quanto si possa immaginare, ma la ricerca esplora anche soluzioni più tecniche, giusto? Esattamente. La ricerca menziona, ad esempio, l'importanza dei modelli open source. BloomZeat, ad esempio, sembra ottenere risultati migliori di ChatGPT. Almeno in alcuni casi si tratta di un modello multilingue open source addestrato su un vasto corpus di dati. E nei nostri esperimenti si è mostrato più efficace di ChatGPT, soprattutto in scenari zero shot, ovvero senza esempi di contesto. Ah, ok, quindi un modello open source. Quindi. Perché non utilizzare tutti i modelli open source? Sembrerebbe la soluzione ideale. Non è così semplice, ci sono alcuni ostacoli da considerare. Molti modelli open source sono distribuiti con licenze accademiche, il che potrebbe limitarne l'uso commerciale. Capisco. Inoltre, modelli linguistici sono spesso molto grandi e richiedono risorse computazionali significative per l'addestramento e l'esecuzione. Capisco. Quindi anche se open source non sono poi così accessibili a tutti, servono competenze tecniche specifiche e hardware potente. Proprio così. Ma torniamo alla questione della tokenizzazione. La ricerca evidenzia due fattori principali che contribuiscono a questa disparità di trattamento tra le lingue. Il primo è la quantità di dati di addestramento disponibili per ogni lingua. Le lingue meno rappresentate nei dati di addestramento vengono inevitabilmente penalizzate. Il caso, come dicevamo prima, del Telugu, una lingua indiana con un tasso di frammentazione molto elevato. Giusto, e il secondo fattore? Il secondo fattore è più insidioso e riguarda le proprietà intrinseche delle lingue e dei loro sistemi di scrittura. Cioè, alcune lingue sono strutturalmente più complesse da elaborare per i tokenizer. Esattamente. Anche a parità di dati di addestramento, alcune lingue vengono frammentate in un numero maggiore di token rispetto ad altre. Ad esempio, le lingue con sistemi di scrittura non latini come l'arabo o il cinese tendono ad avere un tasso di frammentazione più elevato. Ok, quindi non basta semplicemente aumentare la quantità di dati di addestramento per risolvere il problema. No, bisogna intervenire anche a livello di progettazione dei tokenizer rendendoli più sensibili alle specificità di ogni lingua. La ricerca menziona alcune soluzioni innovative in questo senso, ad esempio l'utilizzo di tecniche di bilanciamento dei dati, il trasporto ottimale o l'introduzione di subword fasi. Sabor fasi. Sembra uscito da un film di fantascienza. Di cosa si tratta? In realtà è un concetto abbastanza semplice. Si tratta di utilizzare subword, ovvero frammenti di parole, che non sono necessariamente perfetti, ma che permettono di catturare meglio le sfumature di ogni lingua. No, ok. Un po' come usare dei Lego di diverse forme e dimensioni per costruire una struttura più solida e precisa. Un'ottima analogia. Esistono altre soluzioni promettenti oltre ai subword fasi? Certo, un'altra soluzione interessante è l'aumento della lunghezza del contesto, che i modelli linguistici possono gestire in questo modo anche le lingue con un alto tasso di frammentazione, potrebbero inserire più informazioni nel modello migliorandone le prestazioni. Ah, interessante. Quindi aumentare la lunghezza del contesto. Esatto. Quindi, c'è ancora molto lavoro da fare, ma la ricerca sta aprendo nuove strade per rendere i modelli linguistici più equi e accessibili a tutti. Questo è fondamentale perché queste tecnologie hanno un potenziale enorme in moltissimi ambiti, dalla traduzione automatica all'assistenza virtuale, dall'istruzione all'intrattenimento. Esatto. E non dimentichiamo l'impatto sociale ed economico, come abbiamo visto. La disparità di trattamento tra le lingue può aggravare le disuguaglianze esistenti, limitando l'accesso all'informazione e alle opportunità per milioni di persone. È fondamentale quindi che la comunità scientifica continui a studiare questi fenomeni e a sviluppare soluzioni innovative per garantire un futuro più equo e inclusivo per tutti. Assolutamente. E prima di concludere questa profonda immersione nel mondo dei token e della tokenizzazione, vorrei sottolineare un aspetto fondamentale che emerge dalla ricerca: la trasparenza. Trasparenza? In che senso? È fondamentale che i fornitori di API e di modelli linguistici siano più trasparenti riguardo alle limitazioni dei loro modelli, soprattutto quando pubblicizzano le loro capacità multilingue. Dovrebbero fornire informazioni chiare e dettagliate sul funzionamento dei tokenizer, sui dati di addestramento utilizzati e sulle possibili differenze di costo e di prestazione tra le lingue. Cioè, gli utenti dovrebbero essere consapevoli di cosa stanno acquistando e di quali potrebbero essere le implicazioni. Esattamente. Molti utenti non sono esperti di modelli linguistici e potrebbero non essere a conoscenza di queste problematiche. È una questione di etica e di responsabilità. Concordo pienamente. La trasparenza è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia con gli utenti e per promuovere un utilizzo consapevole e responsabile di queste tecnologie. E non dimentichiamo l'importanza della ricerca indipendente. Studi come quello che abbiamo analizzato oggi sono essenziali per mettere in luce le criticità e per stimolare il dibattito e l'innovazione nel settore. Hai ragione. La ricerca indipendente svolge un ruolo cruciale nel garantire che queste tecnologie siano sviluppate e utilizzate in modo equo e responsabile a beneficio di tutti. Ricapitolando i punti chiave di questa puntata, abbiamo visto come la tokenizzazione, un processo apparentemente tecnico, abbia un impatto significativo sul costo e sulle prestazioni dei modelli linguistici per le diverse lingue. Abbiamo scoperto che le lingue meno rappresentate nei dati di addestramento, come il Telugu, vengono spesso penalizzate sia in termini di costo che di efficacia. Abbiamo analizzato le cause di questa disparità, evidenziando il ruolo della quantità di dati di addestramento e delle proprietà intrinseche delle lingue, e abbiamo esplorato alcune possibili soluzioni, come il bilanciamento dei dati subword fisi e l'aumento della lunghezza del contesto. La strada per un futuro in cui i modelli linguistici siano veramente equi e accessibili a tutti è ancora lunga, ma la ricerca sta facendo passi da gigante e noi dei Deep Dive saremo qui per raccontarvi i progressi e le sfide che ci attendono. Grazie per averci seguito in questa puntata. Vi invitiamo a continuare a esplorare questo affascinante mondo e a riflettere sull'impatto che queste tecnologie hanno sulla nostra vita quotidiana. A presto per una nuova immersione. Insomma, questa tokenizzazione sembra davvero un tema cruciale per il futuro dei modelli linguistici. Assolutamente. E la cosa interessante è che la tokenizzazione, pur essendo un processo tecnico, ha un impatto diretto sull'esperienza dell'utente. Ah, sì. Pensate a quando usate ChatGPT. In che senso? Ma la prossima volta che lo utilizzate, riflettete sul fatto che il costo e le prestazioni potrebbero essere diverse per qualcuno che parla un'altra lingua. Magari per ottenere lo stesso risultato un utente che parla Telugu potrebbe dover pagare di più o accontentarsi di una risposta meno precisa. È un aspetto a cui non avevo mai pensato prima, davvero illuminante. E questo ci riporta all'importanza della trasparenza. I fornitori di queste tecnologie dovrebbero essere più chiari nel comunicare le potenziali differenze di costo e prestazioni tra le lingue. In modo che gli utenti possano fare scelte consapevoli, sì, e capire le implicazioni del loro utilizzo. Esattamente, non si tratta solo di tecnologia, ma anche di equità e di accesso all'informazione. Dobbiamo garantire che queste potenti tecnologie siano a disposizione di tutti indipendentemente dalla lingua che parlano. Già, perché come abbiamo visto la disparità di trattamento tra le lingue può aggravare le disuguaglianze esistenti, è un tema complesso. Ma credo che questa puntata di The Deep Dive abbia contribuito a far luce su un aspetto spesso trascurato del mondo dei modelli linguistici. Spero proprio di sì e mi auguro che questo sia solo l'inizio di una conversazione più ampia sull'equità e l'inclusione nel campo dell'intelligenza artificiale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa immersione. Grazie a tutti per averci seguito. È stato un piacere condividere queste riflessioni con voi. E per chi volesse approfondire l'argomento, vi lasciamo il link alla ricerca che abbiamo analizzato oggi nella descrizione della puntata. Presto per una nuova immersione nel mondo della conoscenza.